Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Oggi vi parleremo del 24esimo classico Disney, film del 1981, Red e Toby, Nemici e Amici. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Daniel Mennix. La storia vede come protagonisti Red, una volpe, che viene trovata e adottata dalla signora Tweed, e Toby, il cane da caccia del vicino. Infatti all'inizio Red e Toby, che sono entrambi cuccioli, sono inseparabili amici. Ma col passare del tempo la loro amicizia sarà impossibile, proprio per le loro differenze. Infatti Toby è un cane da caccia, mentre Red sarebbe la sua possibile preda. Per proteggerlo, quindi, quando sono entrambi cresciuti, la signora Tweed decide di lasciare Red in una foresta protetta. Però proprio lì avviene il suo ultimo incontro con Toby, dopo molte divergenze. Ma proprio in quell'incontro entrambi decidono di appianare i loro conflitti in nome dell'amicizia che avevano avuto. Il film ha visto grandissimi costi di produzione, ma alla fine anche un discreto successo. Tra l'altro come animatore è stato inserito anche Tim Burton e, inoltre, durante la produzione del film, Don Blatt aveva deciso di lasciare gli studios della Disney, anche se lui aveva fatto molte animazioni per il film, ma ha deciso proprio di lasciare senza neanche ricevere il ricavato delle sue animazioni per fondare poi da sé uno studios nuovo. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.